Vieni che contando. Saluto la signora, già ci vediamo, là. Avanti, Vittore. Ciao Bru, ci risentiamo alle prossime, ok. Avanti Giomarì. Ok, ciao Bru. Alle prossime. Vai da Pizzaro, prendi quell'antenino che stai soggiando. Che va benissimo. Ciao, che senti? Faccio magnifica, sei a posto. Ci sentiamo Bru, ciao. Ok, chiede con noi, io là. Ho cambiato anche parecchio, ma nulla da fare, non riuscivo a sentire, zero, neanche la musica per l'antenna, proprio QRL e basta. Bene, Mega, avanti, gigante. Aspetta, sì, Mega, QRL, Mega, tu. Ma tu stai scendo bene? Bruno è Mega a Pio Pio. Bene, Mega, dopo secoli si è sentito Bruno. Non l'avevo visto un anno fa. Era tutti a cacca, siamo incrociati lì, da già non l'ho più visto. Avanti Giovanni. Ok, ma chi è che arriva a fondo scala allora? Gianni? Ah ecco, io sento perfettamente, per cui non ci sono problemi. Va bene, senza chiudere Bru, buon proseguimento, salutoni, è un piacere sentirti, alle prossime, ok? Ciao ciao Bruno, ciao. E mi raccomando, attrezzati, attrezzati. vabbè. Qua io è una bella stazione, dai. Va bene. Sì, anzi. Diciamo che sono con i vati dell'apparecchio, Fruga, fruga. Mi pare che anche Aldo c'ha qualche cosa. Andrebbe Bru. Alle prossimine si sta chiudendo, dai. Avanti, Tony. Bello. Ci risentiamo Bru, alle prossime, ok. Andate. Vai Mari. Io Bru l'ho già salutato. Bene, bene. Vediamo a Giovanni, avanti Giovanni. Anche io l'ho salutato. Ma rimane in ascolto adesso, per non c'è un problema. Ok, Bacchi. Riprendi tu, ma senti 5 minuti, va. Andiamo bene, bene. Vediamo un po', Gianni c'è ancora, Gianni. Figlia. Aiuto, là. Venga, stavo provando una stazione in base, ma stavo scendendo tutta quanta. C'è qualche cosa trasformatore, c'è con un po' di alternanza. Stavo uscendo di testa ieri, ho cambiato anche il microfono, potrebbe essere a quello, niente da fare. Adesso mi tocca riparare dopo le collisioni normali che c'è l'altro microfono. Quando comincia così a me non mi piace di più. Inverti la spina. Prova a invertire la spina. La spina è di quelle rotonde, quelle americane. Di quelle spine lì. Non è che inverti la spina. Come fai? Vabbè, comunque. Già non so cosa fare. Cassoletti grigia un bel. Già fatto la destra, la sinistra, la sinistra, cercavo esce sopra, lo metti sotto e hai cambiato posizione. Ci ho già provato, ho provato anche a cambiare ciabatta, tutto le ho tentate. Ho provato anche la presa diretta dell'antenna, niente da fare, diminuisce ma non sparisce del tutto. Un tantino ce l'ha sempre di alternata, sicuramente è il trasformatore, perché quegli apparecchi, sia il Garage, sia quell'Intec, stazione base, avevano tutti quel problema lì del trasformatore. Usavano, perché assorbivano di più, una mimola. Esatto, però c'hanno due attacchi, c'hanno anche quella 12 volts, con quella 12 volts dovrebbe andare bene. Adesso vi faccio rimettere lo spinotto, perché c'ha di quegli spinotti a jack dietro per l'attacco elettrico, per la 12 volts. Rimetto quello, lo faccio andare a 12, vedrai che anda. Sì, infatti c'è la 12. Quello che stavo cercando stasera per mettere al portatile. Siccome il portatile si è scaricato la batteria, ecco, esce lo voglio far funzionare. Cercando un jack, ne avevo tanti, non so quanto hai dovuto. No, io già ce li ho i pulsi circuiti dove andare a trovare la roba. Già è tutto un casino perché ci sono vigili di tutti e di più, però trovo i bazzardo. Le cassettiere hai bisogno, un paio di cassettiere, o in cassette su la sua vite, il suo spinoso e via. E trovi tutto. Sto dicendo, quelli turbo qual è? Il Galaxy già o no? No, l'Intec è quello che c'ha uno strumento, ce l'ha presente, stazione al basso. Ok, ho capito, sì. L'ho visto, c'è un altro amico, l'ho visto, ho capito. Via quel problema. Bene, dai. Ciao, arrivo avanti. Sì. Devi attaccare il jack, Gianni. Jack. Hai compreso? Se vuoi, no, tanto ti dici non naggio. Non ti ricetterò di già. Anche non naggio manco io ti dici. Scopro la fusata, si fa l'attacco, non c'è nessun problema. Se bisogna, quando salgo me lo prendo anch'io qualcuno. Era vivo, ma era giù tutti idratati. Avanti Giammaris, è rientrato sì, ha detto che no, avanti signor Bacchi. Bacchino si è allontanato 2 minuti, bene vela, è così, è un casino. Come c'è da Gianni, nel Galaxy che microfono stiamo utilizzando? Il suo originale oppure con la base? No, sto usando il Saletta Master Plus, quello con la... con le... cosa pieghevole, dai, col gambo pieghevole. Ah, è ok, dai. Ho capretto, bene meda. Vediamo se Giovanni è rientrato, Giovanni? Perché è male? No, esce benissimo, ah se sta male, esce un amore proprio. Ma si sente anche l'eco? Sì, leggermente in l'eco si sente, va benissimo. Ottimo, poi come parecchio è ottimo, uso parecchio, mi piace. Ma c'era qualcuno che forse vuole entrare, vedo qualche segnale, avanti chi vuole entrare. Guarda così se esce meglio. Ah, va bene, mio, già, anche così è... c'è proprio la modulazione, la potente, la rosa, già c'è il fisico anche, dai. Prepotente? Esatto, come tone, dai. No, diciamo che prepotente qua. Mi chiama a me prepotente, chiata, bebè, andiamo, dai. Chiamami prepotente da oggi. Ah, oh, Gianni, mi sente oltre la modulazione, bella forte, bella, di ottava arriva tutto sparato. Vediamo se Gigante è entrato, Gigante non è entrato, sentiamo Giovanni è negativo, Sio Bruno è assolto, quello è assolto. Gianni riprende la tutta e entra dietro. Gianni non riprende, avanti Vittore. Uia, quanto sto male. Già te matrizzo più bene, andiamo. Ma pare che è cambiato. È migliore questo. No, era migliore l'altro. Ma per radio non mi piace chissà, era meglio l'altra. Meglio l'altra? E questa è, vabbè, forse troppo forte questa o no? Ma come modulazione ci piace? Più bassa di radio, ma c'è l'altra, era più perfetta, più bella, sentivo più bene. Adesso provo a cambiare, aspetta, voglio l'altro. E guarda adesso se ti va bene. Avanti intendo più bel puro. Andiamo allora, bobo. Cioè, da radio a radio, giamba tutto quanto. Oh, non ho cambiato nulla, sono schiacciato qualche pulsante e basta, Già capito, dai. Andiamo, meglio così. Gianni! Gianni, sicuramente al telefono, Bene, Lela, no, io mi sono tutte accese qua, sono ogni tanto cambio, meglio fare scaldare ogni tanto, se no qua, fino alla ruggine. Sentiamo, Gigante, attenzione, Bacchisio riprende, Giovanni è sotto, avanti to. Siamo rimasti in due. I cantieri eravamo rimasti in due, siamo rimasti. Vabbè, andiamo, dai, ehi, vabbè. Ce la vediamo così stasera. Già entrano piano là, ma si sono lontanati 2 minuti. Succede, ti chiamano e ti riesco a stare. Sto facendo tempo a avvertire. Bene, mela. Oia, ti voglio dire una cosa, se vuoi dire. Bene, il cane, sei uscito, sì. Io... Dimmi già, scusa. Ah, lo stavo dicendo a me, perché il cane. Ah, pensavo stessi dicendo a me. No, io ancora sono uscito a lui. Non sei uscito a lui, ma che l'hai? sei alle 8:30? No, alle 8. Dalle 8, alle 8, alle 8:30 non mi metto qua. Chi è che mi sta telefonando? Ho sentito una bella musichetta già. Va bene, adesso devo fare qualcosa, andare. Allora, detto. C'è una musica gentile giù. E tutto. Bella musichetta, e c'è la musica del cellulare, quella che c'è del mondo, se è bella, vabbè. La canzone di quest'anno, lo sa, detto, messicana, brasiliana, quella che è bellissima, anzi. Sì, sì. E così è, di tutto si intende. Già, di tutto si sente. Oggi avevo un bicchietto per affrontare le 8, il CCPTO 4, CCPTO e la CGL sono saliti alle 10 e non 4 oggi, sono proprio anticappati, non vengono in vano. Ma da dire anche su paesi, ma te dici che sono appena, che hanno fatto bene in me, parla a vivere di là. Adesso te l'ha già mandato in affanculo, te l'ha già mandato. E non ti ha fatto il segretario, e non ti ha fatto. Lui e i suoi seguaci sono dei pupazzi, come pupazzi. Adesso perché la Fiat, la Figi, la Salati, sono Fedro Casotto. Sono tutti corrotti, tutti gli altri mostrinari, come sua. Non basta tutta la roba che si ha preso lui e compagni. Ormai sono nati soli come una bestia, tanto lui sono una bestia. Sì, è così, è quello lì. È così, che dovevamo, è così, se no me ne lasci da GGL. Là c'hanno tutto quanto, c'hanno, quindi. È un coso. Ma io gli avevo promesso che non volevo, non faccio più niente che fa. Cioè sono con la signora adesso. Vabbè, scusa, tu c'hai il caffè vicino alla tua, puoi cambiare non ti piace, adesso è la CGL. E va il caffè per i pensionati si è a posto. La CGL ci voglia col paese, non hai capito? Ma mi tocca riportargli tutto, tutto quanto devo portargli, quindi. Ma no, continuo a farlo là, vado là, ma non vado e sono a posto. Vabbè, io quando mi ero uscito mi ho fatto la cartella da signorina e mi sono andato a fare i gatti miei. Adesso da quanto mi sta seguendo la fila di un collega là, che c'è lo studio, a me, a Tore e altri là, diciamo, una parecchia ne ha. Qualunque cosa ho bisogno chiamo e non risolve, hai capito? Mi risolve tutti i problemi, se è caso, è ciccia. Però loro sugli amici non li pigliano. 0.0. Una volta dovevo fare 7.30 e loro non mi volevano far pagare a me, anzi a me una piccola quota, e devo pagare 65 euro per mia moglie. Dov'è mia moglie? Vedete com'è, dunque sto facendo l'unico, non bisogna pagare la quota, sì, la quota. Ho preso la sua benedizione, ho detto di non andare, invece sono andato, non ce la fai. Io qui ho poco non faccio, come fa sempre da pagare uno, pago solo la quota mia, regolare e basta, capito, avanti. No, infatti, là io pago 25 euro, mi gioco in baga. Tanto se vado in altri posti pago lo stesso, quindi. Però solo che devo riportare tutti i documenti, torno devo riportare per fare tutto. Per forza, per segnarti al computer. Questa è cosa, la fila di Ilaria Scano, la fila di Scano, di Marco, diciamo, che è coso, consulente. Lo fa anche a Gavino Motta e gli altri colleghi, ma di là e mi risolve tutto quanto, c'è anche mia figlia lo stesso e fa tutto e fa con qualcosa bisogno chiamo e mi risolve, hai capito? Allora gli domandavo piaceri, non ti chiamava neanche Paco, si chiamava, figurati. Oh, dove vado io là? Chiamo, mi dà l'appuntamento, salgo, gli lascio tutto quanto e vado via. Poi mi chiamano per andare a ritirare tutto quanto, capito? No, non faccio né fila né nulla. E anche io faccio così, lui mi manda un messaggio, mi manda. Quando manda un messaggio io prendo il cacciavite, la roba non si arricchia e io la consegno. Poi mi chiamo quando sta pronto, vado, firmo, vado e me ne vado, capito? Ma se c'è un'altra cosa da fare, la chiamo e me la risolve, capito? Non c'è bisogno di essere io, fai filmare e via. per bisogno, vediamo se Bacchisi è entrato. Mi è arrivato. Ok, se va Bacchisi ha... sta facendo qualche lavoro, ho pensato, avanti. Marino, la doccia, scordatela. Non ho capito, la doccia? Scordatela. Perché? È che mi mantiene, mi preoccupa. Vasca, non volete lì, sì o no? Ne ho tolta la vasca, tolta. Mi rovescio, caro. Sì, a sapere che cavo di... stasera c'ho tutti quanti i demoni in giro. E se ci vuole la doccia, uno sabello e cosa, una amica deve fissarsi. Una maniglia come c'è la suocera, non so se la suocera è invalida, e una doccia l'abbiamo messa la maniglia proprio per tenersi, capito? Così via. Purtroppo così va qui. Ci vuole una bella maniglia con le belle robuste. E per fare se non sto non sa bene come fa molta gente, purtroppo se non leggi non leggi. No, non va bene la maniglia così via. Ci vuole una bella maniglia dei 18 anni per mantenermi, che mi do gusta. Tu sei buon gustaio, va chi? Sei buon gustaio. Hai sentito cosa ha detto Bacchisio? No, lei ha cucini. Non stavo ascoltando, perché gli manca la maniglia. Allora ha sentito molto male, sentito ciò. Io gli ho consigliato una doccia, mi ha messo la maniglia, una bella maniglia robusta, e lo sgabello, lo vedo, si siede e si fa la doccia, la scusa non regge. E lui mi ha detto, sì, ci vuole una bella maniglia di 18enne. Hai capito ciò? Sì, ne bisogna fare così, bisogna fare. Purtroppo. Signor Bacchi, piano piano, si attacca la maniglia e ti vai la doccia. Sì, oltre a mantenere la maniglia, oggi vai la doccia, quello di togliermi. Se vai lì, mi stai in testa, no? No, se no bisogna fare una vita, come un coso. Un tizio lavorava con me di Usilo. E mi diceva, stasera, Pera si chiama il cognome. Stasera non andavo a casa e faccio la doccia, c'è Maria Antonietta che ha messo l'acqua a scaldare e con la bagnerola mi fa la doccia. È proprio all'antica, all'antica. vabbè, dopo avere la doccia di una verba e la signora che buttava l'acqua così. Hai capito, ma che vuoi chiedere, è una gabella, un pantino. Ti basi e ti fa la doccia. Non si vede il mantenere, se non avete posato, non è bisogno di mantenerlo. Quindi la cornetta ti fa la doccia. A capretto, sei un gigante. Capretto, Maria, la doccia è 70x80x80, dunque se ti poni avanti ti riesci a farlo tu. Una sedia stretta, diciamo, va. E se non sfondi tutto lo fai più grande, vediamo se dica io, ma... Se piove domani mi metto fuori e mi faccio la doccia. Ma chi ha la terra posati? Gian Maria, cosa? Domani sposeva, accaba Eva, avanti Gian Maria. ma c'è, allora io pure mi sono messo la maniglia e con quello si ammattiene benissimo, per cui però bisogna anche vedere i casi, magari il caso è tuo è diversa la questione. Poi spaziamente a sta stretta che non si può nemmeno muoversi, scatto, è una parola. Ma un sistema c'è, Bacchini, e fai come facevo un tempo, presso la pastinella, e poi la signorina la pareva il nato, e andava a Roma Tessi. Bisogna stare lì inchinati, solo che c'è un problema è questo. Se ti inchini non te ne pensi più, se vai nei crampi, alle cose, ai muscoli non te ne altri più. Se stai in piedi ti fai il drone, ti fai, ti bici, bisogna essere tutto appuntizzato. E allora bisogna mettere le cinghie sulla parete, belle gatte, in modo che ti tenga il dritto, ma gatte, lui per carità, a che punto, adesso è stata becca tu di mare, per carità, Maria. Ma è così purtroppo. È un casotto, Giovanni, un casotto, infatti che è una luce stretta. Vatti, non so bello stretto, ci vuole una sedia stretta. E ti stiri, ma cazzo l'altro, se no mi da fare come un po' di consumo di uso. Sei come la Gio Maria. La bacinella, la signora butta l'acqua da sopra. Sto vedendo dove va. Allora, Vittore. Purtroppo. Purtroppo è così, bisogna fare piano piano e sempre andando. Leggero, leggero, la mano ti sciacqui e con l'altra facci la spugna e ti mantieni. E alla giura viene male magari, alla giura rimane male in quelle condizioni viene male, poi anche stretta così. Certo, la mia è 1,60 m, è un po' lunga ma è stretta di larghezza, però certo, sta bene ugualmente. Ma quando, come quelle bacchette è troppo stretta, per cui se sono in due meglio, dai, cazzo. Così, io non ho passato nessuno questi droni atroci sto passando. Cioè proprio da grimba, non sai come cavolo sbatte la testa. Poi viene la notte, ti metti a letto, né a destra, né a sinistra, faccio fare la faccia in alto. E ne pensi se devi fare quello di prima. E chi non ce l'ha non lo sa, perché è quello il fatto, però chi ce l'ha già lo sa con me, lui è un martello veramente. Purtroppo, cosa si fa? Non si può fare niente, perché vai Maria. Guarda, ma chi c'è un sistema, adesso stanotte quando vado a lavorare, ti prenoto due belle negrette e domani te le mando anche la tua e ti faccio fare la doccia, ti faccio massaggiare, così ti rilassi, va? Bene, ti va, Bacchista. Benevela, anda benevela, manco la Iana entra, per carità, siamo amici terra-terra, siamo, perché ci finchini ti hai butta, ti stai in piedi, è una tragedia. Adesso, se fai la strada per andare in bagno, se non cammini, ti dai bocca e caggi buro, e lo fini pesi. Da solo non fa, bisogna che ti accompagnino. È un casotto, sì. È un casotto, ma chi? Io quando parli di giorno e poi si fa la razza, e poi almeno lo pensi con bene cosa può fare, va. Bene, avanti, to. Troppo così. Siamo un giorno di massaggio e a fare 2 ore si commetterà di là, ne ho preso. Sì, ha ragione, no. Ancora ci sono 4 rotti da passare. 4 rotti in bianco ancora. Non pensarci, ma chi non ci devi pensare? A chi serve bene se non passa mai. Avanti Giovanni. Con le cappelle, perché non riesci a camminare, nulla. Allora, ce l'ho le cappelle, non riesci. Quando tu vai a allungare la gamba, alzare la gamba, non solleva, niente da fare, è bloccata. E dolore atroce, sembra che ci dei coltelli girando dentro. Quella è grave, quella è... E allora voglio aspettare, ma speriamo bene, infatti vai, che quando fai l'altro almeno sai cosa c'è, se possono fare qualcosa che alla fanno. Auguriamoci, lo battizzai. Male stiamo andando. Infatti noi Camarino, io ho fatto già la domanda a Calamascio e via. Baci Calamascio, già non è tempo, devo morire niente per morire tu. Io sono Calamascio, non è lungo battere, non è il vane. Non c'è spazio, devi aspettare un bel poco, Baci, e non ci pensare. Avanti, no. Infatti, non c'è spazio, bisogna fare spazio, bisogna fare, Baci, devi aspettare un bel po'. Ancora non è tempo. Sei già arrivato il tempo, sta arrivando piano piano. Ma non è lungo, Baci, non è per te, no. Non è per te, non lo spazio, lascia perdere. Beh sì, io in questo passaggio ne approfitto e c'ho mio nipote che mi sta mandando messaggi a tutto massaggiare. Ciao Baci, ben sentito, saluto in casa, ci sentiamo domani. Ciao anche a Giovanna, ciao Tore, saluto tutti gli assoltori, ciao Bruno, ciao anche a Gianni, che forse abbiamo messo in bianco, magari al telefono. E per il cuore di Cavalli, Baci. Ehi, ciao Marino, buona serata, buon QRT, buon tutto. A domani ci concilia, ci chiacchieriamo ancora. No, niente, lo passo, così. Volevo chiederti una cosa, poi niente. Va bene, avanti, Don Malì. Un attimo, Giovanni, cosa c'è, Baci? Volevo chiederti una cosa, niente, già ci sentiamo domani. Benissimo, avanti, Giovanni. Ok, ciao Marisa. Buon proseguimento, grazie per la chiacchierata. sta tutto nel caso, sentiamo domani se tutto va bene. Tore? Ciao Mari, stammi bene, buona cena e tutto quanto. Sentiamo domani, ok, ciao. Ti prendi il signor Bacchini. Oh Gianni, ci sei? Guarda se che ha sarrato, ok, là. Non si è allontanato dal telefono. Avanti signor Bacchini. E lo ride con le patatine. Ma chi ci ascolta il Trinadino ce ne va in QRT perché è arrivata l'ora del merendero. Bene, ciao Tore, buona serata. Buona serata anche a Gio Maria. Allora, ti saluto, ma ci dai, buon trasmesso. Saluto in casa, ci sentiamo domani, se tutto va bene. Ciao, vai tu. Ok, ciao signor Bacchi, ci sentiamo domani. Ciao da tutto bene, ok. Gio Maria, è così, Purtroppo. Fino a che in mezzo non ce l'ha queste cose, purtroppo è arrivato anche il cartaio, invece si può pensare bene e invece sta male. Ma auguriamoci che riesca a risolvere quel problema, capito? È un problema brutto, per carità. Ecco cosa ci vuoi fare. E poi, se più si va, se ci divertiamo, capito sto? Infatti, è così. Che si va avanti è peggio e... ma speriamo di non avere assai dolori, anche se no andiamo male. Vabbè dai Gio Maria, a me mi sacciamenti, ci risentiamo domani se tutto va bene. Stammi bene Gio Maria, buona cena e tutto quanto, ok, a domani. Saluto anche io che non l'ascolto. Ok, ciao, allora si va. Ciao, prima entra, e tutto va bene. Ma prima entrato, questo è prima di mezzogiorno, non stai entrando qui a quell'ora non lo so. Qualche volta entro. Stamattina no. Ma poi lasci pure domani, se no vedo se ho qualcosa da fare, se viene mio fratello. Se no già entro. E adesso pazienza stamattina, capito? Per cui. D'accordo, allora ci sentiamo a te, grazie, alle prossime. Ok, ciao. Prego.